quando arrivo dopo 20 minuti fammi un cenno. Si sente fuori? Prova. Ah. Ah. Una sirena dietro il vento taglia il cielo di Madrid. Scende la notte a aiutare il traffico. Gente che sale, scende dai tassi. È un generale d'80 anni con un passo forestiero, senza medaglie appese al petto, solo una croce tutta d'oro. E qualcuno ha bussato alla porta, è il passato che lo viene a chiamare. C'è una storia che è morta e sepolta dal mare, ma è una storia da ricordare, come Natale passato in casa, come una terra persa per sempre, come una curva pericolosa. E la candela riflette la luce sopra un foglio fitto di righe. Un leone attraversa la storia e una penna che scrive. Generale, la tua spada nel vento e ha una lama che punta nel sole. E la notte sta dietro al tramonto che sale. E il vapore del caffè che fischia come un amico che ti vuole, come una nave che gonfia le vele, come la vita, la guerra e i suoi misteri, come la gente che non li vuole. I giornali sono già usciti come volpi affacciate alla tana, come fabbriche rimesse in moto dal profumo del caffè in cucina. E un generale d'80 anni con un passo forestiero, senza medaglie appese al suo petto, solo una croce tutta d'oro. Generale, c'è una nave nel mare, taglia le onde e le ricopre di schiuma. C'è una donna affacciata al balcone che fuma. E c'è una striscia di terra che forse non vale neanche più la pena di rivedere, più la pena di ricordare. E c'è una razza di uomini che si guardano un po' meglio dentro le mani e li trovano lontani. La stessa razza di uomini che pensano accavallando le gambe al tavolino e un bicchiere di vino tra le mani. Ma che destino è domani? Ma che destino è?